Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il giorno, dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale troppo, facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Mi fa molto piacere che sia partita molto bene, d'accordo, ho appena parlato con Toire, con il figlio del chairman, parlando lui inglese, che è un ragazzo molto sveglio, molto simpatico, e li ho ringraziati per le parole gentilissime che hanno usato stamattina e fatto anche tutti gli auguri necessari per il successo dell'Inter, che certamente con la loro buona volontà potrà arrivare. Tanto doveva prima o poi. Vabbè, nostalgia canaglia, Giorgio De Luca è un bastardo, il nostro autore, perché così solletica il cuore ancora caldo dei tifosi nerazzurri, che oggi vogliamo convocare in massa. 800240024, ne ha atteso anche un illustre che abita normalmente dall'altra parte di questo studio, ne ha atteso un altro che è ben noto, è stato insomma Evaristo Beccalossi. Perché c'è un futuro, c'è un grande gruppo che ha preso l'Inter, però c'è anche molta nostalgia canaglia di un calcio che probabilmente non esiste più. E lei chi è? Un calcio che esiste, speriamo che duri ancora per un mesetto e mezzo, è quello della nazionale che ieri sera ha battuto la Finlandia un 2-0 che continua sulla scia. Ieri ne parlavamo, questa nazionale sta crescendo un po' nei consensi, nella valutazione generale. È solo un'impressione che noi possiamo avere da lontano, ma chi la frequenta ogni giorno ce lo conferma. Ieri c'è stato questo 2-0 alla Finlandia, oggi ci sarà con ogni probabilità l'annuncio del nuovo commissario tecnico, cosa assolutamente da farsi prima di partire per l'europeo. Il nuovo CT sarà Ventura, che guadagnerà un'infinità meno rispetto a quanto prende il commissario tecnico in carica, 4,5 due premi, per Ventura saranno 1,5 con contratto per 2 anni, ma qui non stiamo svelando nessun segreto. Dopo la vittoria sulla Finlandia ha parlato naturalmente Antonio Conte. Mi dispiace sinceramente se creiamo dei casi particolari o ci accaniamo contro qualcuno in particolare, ecco. Io ho fatto il calciatore, sinceramente la cosa peggiore in assoluto è quando si crea o si monta una situazione nei confronti di qualcuno. Io penso che questo non è giusto, quindi mi auguro anche da parte vostra che ci sia più accortezza da questo punto di vista, se vogliamo il bene della nazionale. Se poi invece vogliamo il bene della polemica o il bene di creare delle frizioni o comunque creare dei malumori all'interno del gruppo, ne prendo atto, ma mi dispiace tanto. Questo era Conte, naturalmente il senso è il solito, noi contro voi, noi contro tutti, la sindrome del fortino, ma questa la conosciamo fin da quando eravamo bambini. Altro torneo che è in corso, è iniziato e questa notte ha visto in campo la nazionale grande favorita, cioè l'Argentina, la Coppa America. Allora, dopo la vittoria 2-1 contro il Cile, ha parlato uno che conosciamo abbastanza bene, soprattutto dalle parti di Napoli, Gonzalo Higuaín. Una gara importante per noi, contro un avversario duro, forte, e per questo aspettiamo di fare questa partita e, bueno, per sfortuna abbiamo vinto. Bene, bene, veramente abbiamo una squadra forte e aspettiamo dimostrarlo ogni partita. Io sorrido mentre ascolti Guain leggendo i vostri messaggi, 349-238-6666 sia Facebook, sia WhatsApp che SMS normali, e leggo questo di Andrea da Fermo: se i cinesi cacciali sordi la nostalgia passa subito. Poi ce n'è un altro che scrive: la serietà che ha un gruppo cinese proprietario della squadra che ha rimandato indietro Luiz Adriano non rispettando i patti con lui presi e che oggi è padrone dell'Inter, domanda Franklin. No, non è questione quella di Luiz Adriano, è stata una storia strana, il giocatore è arrivato là, non gli è stato dato non è stata data la montagna di denaro promessa, si è guardato in giro, ha detto no, io qui non ci sto, preferisco tornare a Milano. Ma è stata una vicenda sui generis, sulla solvibilità di questi grandi gruppi cinesi, non esistono ormai dubbi a livello mondiale. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 0024, il numero verde, vi aspettiamo. Tutti convocati. Convocati. Oh, ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente. Ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso tra la porta, forse sulle tue piccole mani stai piangendo. No, mi piace rimanere amico, questo senza dubbio, anche dei nuovi proprietari, perché sono gentili loro, e certamente di Toir perché c'è amicizia, e per il resto poi vedrò se... non credo, non c'è bisogno di una carica, ho letto anche di consulente che non so cosa voglia dire, no, sinceramente. L'addio definitivo al vinto? Boh, ma io so come... Insomma, il definitivo è quando uno col cuore molla una cosa, se no, se da quel punto di vista rimani sempre collegato, per me non è definitivo, insomma. Pur non essendo interista, guardate, giuro, quasi mi scappa una lacrimuccia. Abbiamo convocato uno dei grandi fuoriclasse di Radio 24, Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno a te. C'è Pierluigi Pardo? Sì, sono qui. Carissimo. E c'è Evaristo Beccalossi. Facciamo una grande spremuta di senso. Evaristo, ciao. Miau. È un saluto. Hai già imparato il mandarino? Cioè, sei già su quella strada lì? Allora, ragazzi, io lo chiedo prima agli interisti, poi io e Pardo siamo due cuori di pietra, giusto Piera? Noi. Anaffettivi, non che ce frega. Però lo chiedo agli interisti. Questo passaggio, che fossi interista saluterei con salti di gioia, perché si va verso comunque una proprietà che è in grado di dare all'Inter una nuova grande dimensione. Però ci sono i nostalgici che sentono Moratti cantare e che si commuovono ancora. No, ma io vado oltre. Io mi ricordo quando a Milano passavo per una via che è via De Amicis, sì, e c'era un negozio Fraizzoli Uniformi. Cioè l'Inter vinse uno scudetto con un presidente che partiva da un negozio dove vendeva uniformi militari e uniformi clericali, no? Quindi, sì, sì. Quindi è chiaro che vengo, ahimè, per motivi anagrafici, da un mondo diverso. Era un mondo in cui c'era l'industriale, l'imprenditore, ma allora non si diceva, non si usava la parola imprenditore, si usava la parola industriale. L'industriale che si comprava una squadra e magari si svenava, faceva sacrifici e poi si commuoveva quando doveva venderla. Fraizzoli la vendette anni dopo a Pellegrini. È chiaro che quello dal punto di vista letterario è un calcio più bello da vivere, da raccontare. Però d'altra parte poi quando perdi ti dispiace, quando arrivi ottavo, settimo ti dispiace e soffri magari nel vedere che una squadra che non ti è simpaticissima vince 5 scudetti consecutivi, no? E quindi purtroppo bisogna fare delle scelte nella vita e il Manchester City, l'Arsenal, il Manchester United, il Chelsea, via il Paris Saint Germain, insomma questa scelta l'hanno fatta e sono stati ripagati, per cui bisogna adeguarsi al mondo che cambia. Ti commuovevi anche quando magari andavi in motorino a San Siro a vedere il derby e c'era Beccalossi che faceva Beccalossi, faceva magari prendevi freddo e dovevi arrivare 3 ore prima perché faceva freddo, perché non c'erano i posti a sedere, c'era numerati, ricordi? Parterre, eccetera, e però poi vedevi quel signore lì che faceva 2 gol. Oppure, come si raccontava una volta, lo stadio di San Siro scricchiolava perché una finta di Beccalossi mandava tutta da una parte, tutta una curva. Grande Enrico, grazie. No, volevo dire che Enrico è l'unica cosa che gli industriali non è che si svenassero quegli anni lì con gli ingaggi, eh? Eh no, no, quello va detto, sì, certo. No, poi dopo, a parte le tante cose, puoi fare il dirigente sportivo tranquillamente, perché hai fatto un'analisi perfetta. Grazie, Maristo. Ciao ragazzi, tutti bene? Sì, e tu come stai? Sei contento, cioè, sei contento dell'arrivo dei cinesi o sei uno dei nostalgici che sentono Moratti cantare e gli vengono i lucciconi? No, ma quello rimane per sempre, perché le emozioni che ha descritto anche Enrico in quegli anni lì e non le puoi cancellare. Però ultimamente mi sto occupando di calcio e ti occupi sempre meno della parte più bella, che è quella sportiva, ma devi andare alla ricerca dei budget per fare le squadre competitive e far contenti i tifosi. Quindi c'è un percorso completamente diverso da anni passati. È chiaro che per la generazione di adesso sono convinto che non cambia niente, perché alla fine l'importante è che la squadra torni a vincere e sia competitiva. Quindi io qua dico una cosa: Toir è stato accolto così, come una persona, sì, vediamo, però in 2 anni ha tirato un carico da 11, perché questa operazione secondo me è stata fantastica, perché tutti sono alla ricerca di investitori e Toir zitto zitto è arrivato e ha messo in condizione di avere un futuro tranquillo. Ma quindi è stato un traghettatore Toir, non indimenticabile traghettatore. Ha fatto una quantità di soldi, va bene, ma è giusto, ha fatto una cosa importante. Ci ha guadagnato, quindi, secondo voi che siete esperti? Ci ha guadagnato tantissimo, ma va bene, perché non è che il denaro sia una vergogna. Ha guadagnato molto e ha messo l'Inter nella condizione adesso di poter avere un grandissimo gruppo internazionale che quantomeno ha la possibilità di fare le cose grandi. Il patrimonio che ha portato, cos'è? Le sue conoscenze? 75 milioni credo, adesso qua ci sarebbe ben in atto. No, 75 capito, milioni, poi l'aumento di capitale. Scusa, 75 milioni prestati al 9% di Inter. Ma detta così sembra che... Certo, dico, non è che se io e Pierluigi compriamo il Cagliari poi lo rivendiamo a un arabo, non è così facile, no? Dico per dire. No, lui entra da qua, adesso non voglio veramente dire inesattezze, ma da quello che ho capito, ascoltando Berinazzo e non soltanto lui, con grande attenzione, lui è entrato con 75 milioni, ha fatto poi un aumento di capitale, poi c'è stata questa operazione abbastanza controversa del prestito col 9% di tasso di interesse da parte della sua società nei confronti dell'Inter, però alla fine il risultato della cessione delle sue quote è molto positivo per lui economicamente, e credo che possa essere positivo anche per l'Inter, perché l'Inter comunque con quel tipo di equilibrio faceva tanta fatica e adesso invece ha un gruppo internazionale, quindi anche la capacità di Toir di attirare un partner così importante è una cosa che in futuro potrà essere molto utile per l'Inter. Per dirla alla Mourinho, non è certo stato un pirlo. Non è stato un pirlo. Certo, ha aperto all'Inter le porte del mercato asiatico, probabilmente. Il negozio in via De Amicis, indubbiamente, fa venire fuori la grimuccia. Sono perfettamente d'accordo. Però credo anche una cosa. Io penso che l'Italia, la grande forza dell'Italia è proprio in questa sua artigianalità, in questa sua eccellenza, in questa sua bellezza. Quindi io credo che se i cinesi non saranno scemi, e non penso che lo saranno, quelli che sono gli elementi, diciamo, storici, tradizionali, romantici della vita dell'Inter, di questi anni di storia leggendaria e gloriosa, li valorizzeranno. Sì, a me che vale per tutti, vale per il Milan, per la Roma, per tutte le squadre. Cioè, un russo che viene e si compra una casa a Capri, se la compra perché vuole sentirsi prese, non se la compra per trasformarla in Disneyland. Per cui è chiaro che un po' fa male vedere che ci sono dei pezzi del nostro paese che vengono venduti, però è anche vero che poi alla fine, soprattutto se il compratore è intelligente, e questo lo staremo a vedere, se lo compra proprio perché, o comunque partecipa, per valorizzarla, e perché è l'Italia, perché è una cosa così, perché è una cosa che ha una storia, è una sua bellezza. Quindi da questo punto di vista, io, per dirti, Pallozza ha avuto mille motivi, insomma, di discussione, però ecco, la Hall of Fame, per esempio, le iniziative che ha fatto con gli ex calciatori, tutta una serie di cose culturali legate alla storia della Roma sono indiscutibili. E le ha fatte uno che è a Boston, capito? Poi l'ha fatto ovviamente con gli uomini che stanno in Italia, ma sono cose indiscutibili. Quindi certo. Lo stesso Saputo mi sembra uno che la bolognese, è uno che sa il fatto suo. Cioè, uno che viene all'Inter, non è che viene all'Inter per fare dell'Inter gli LA Lakers. È chiaro. Senti, per estendere, posso farti una domanda io, ribaltando? E non vedi qualcosa di tenero e di romantico nel Berlusconi che continua a tirare su una clausola dietro l'altra, perché da un lato lo vuole vendere il Milan, ma dall'altro non lo vuole vendere? Io, sarà perché è arrivato a 80 anni Berlusconi, ma mi intenerisce in questo momento. Questo è il grande paradosso, perché da un lato ci sono gli interisti preoccupati perché si vende ai cinesi, dall'altro ci sono gli interisti preoccupati davanti del calcio, perché non si vende ai cinesi. Io penso, lo dico da giorni, che è esattamente come dici tu, cioè Berlusconi ha una parte razionale che lo porta a vendere e ha una parte romantica che lo porta a non vendere. Magari in questo momento la maggioranza di che cambia nel giro di poche ore normalmente. Sì, a seconda di chi parli. Delle situazioni, sì. Con quale delle due parti? E sicuramente in questo momento una parte del popolo milanista tifa perché lui venda. Però in realtà il fatto che lui non voglia vendere è la più grande dimostrazione di amore per la società. Sono intenerito da interista, la guardo da lontano ma mi intenerisce sto fatto. Vendo, però no, ci metto la clausola però mi immagino i figli che dicono: papà, basta, vendi sto cazzo di vendo il 49% per un milione di miliardi, però continua a comandare, ovviamente. Nessuno la compra perché nessuno nemmeno in Cina l'anello al naso. Questo è il senso. Un'ultima cosa che chiedo al Beck e Enrico Ruggeri, che poi lascio al Falco e al Gabbiano, è questa: come vi immaginate l'Inter del Sollevante? Vai, Becca, parla prima. Vado io, l'importante è che credo che ci voglia un punto di riferimento importante in Italia, perché poi tra l'altro secondo me anche la Pirelli è stata acquisita da cinesi, quindi una struttura economica forte. Poi secondo me non bisogna sbagliare, perché a livello di Italia, che è una realtà particolare, voi tutti siete preparati e sapete come funziona a livello calcistico, ci vuole una figura importante che capisca lo spirito dei tifosi e la società Inter, e soprattutto faccia da tramite per andare a costruire una squadra che deve tornare a vincere. Ha detto la cosa giusta. Ci vuole uno. Io sogno Beccalossi da anni, ma non so se il mio sogno si è realizzato. No, io sto parlando di uno che va, che alla fine della partita va in sala stampa a parlare, che è quello che in genere può mancare in realtà di questo tipo. Cioè, poi è chiaro che finita la partita, al di là dell'allenatore, se devono chiedere qualcosa sulla settimana dopo, sul giocatore che è stato squalificato, sul mercato da fare, non ci può andare Toir, e temo non ci possa neanche andare il cinese del quale ancora non ho imparato il cognome. Sì. Ci vuole l'Oriali della situazione, il Beccalossi della situazione, forse lo Zanetti, se si beccalossizza un pochino. Questa la vedo dura. Se in qualche modo viene fuori un po' la parte argentina, la garra che dovrebbe avere, Allora è uno che va anche a lamentarsi, perché a volte nell'Inter bisogna anche ragazzi, lamentarsi. Ragazzi, voi siete ancora tutti prigionieri del comandante. Del Mourinho, siete ancora tutti prigionieri del comandante Mourinho. Pronto, vi dico una cosa, Ailian, vedi che non siete preparati. Ailian è un'altra parola cinese, vuol dire. Evaristo, con calma. Cioè, Adesso dico una cosa impopolare: a prendere i bar in via Paolo Sarpi mettendo i sacchetti delle sunga pieni di soldi sui balconi. Io ho due figli piccoli di 6 e 10 anni. Impareremo il cinese. Io ho due figli piccoli. Quando tra 30 anni i miei figli andranno a fare i badanti alle vecchie cinesi, perché lo scenario che sta per configurarsi è quello, dovremmo impararlo anche noi cinesi. Va bene, con il tempo lo vedremo. Comunque 60 metri quadri di Paolo Sarpi forse li prenderei adesso. Grazie Enrico Ruggeri, lasciamo la preparazione al Falco e il Gabbiano, che arriverà subito dopo di noi. Grazie al Beck, come al solito. Se non ti sento ti appendo, ma ti sento bene, quindi stai lì. Borsa, torniamo. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Di avere sicuramente un ottimo gruppo di calciatori, soprattutto un ottimo gruppo di uomini, prima di tutto. E mi auguro veramente di continuare a lavorare così come stiamo facendo, in maniera seria, molto determinata, con grande volontà di superare gli ostacoli. Me lo auguro per loro, non tanto per me, ma più per loro, per quello che stanno facendo, per l'impegno, per lo spirito che ci stanno mettendo. Per lo spirito che ci stanno mettendo. So che sono le solite frasi che si dicono, però ho lavorato duro dal primo giorno che sono arrivato qui, perché davvero quest'anno avevo avuto paura di non far parte di questi 23 ragazzi, e perciò sono a disposizione e cerco di dare il massimo sempre. Sarà molto importante questa settimana vedere chi sta meglio, chi ci dà maggiori garanzie, tenendo conto che la prima partita dice tutto e dice niente. In questo anche in passato l'ha dimostrato, però abbiamo ancora un'altra settimana di lavoro. La disponibilità di questi ragazzi mi lascia molto molto fiducioso e sereno, perché so che comunque daremo sempre tutto. Gino De Luca ha scelto una canzone particolarmente pompata, bella carica, per presentare il 2-0 dell'Italia sulla Finlandia, di cui tra poco parleremo, e questa spedizione che sta per partire. Tanto mi fa morire da ridere il messaggio via WhatsApp di un ascoltatore. Sto aspettando con ansia, senti qua Pardo, la decisione di Ibra. Oggi comunica alle 16 in diretta su Facebook. Dove va? Oppure no, magari dicono potrebbe presentare una nuova linea di abbigliamento, questo è tutto da vedere. Però l'ascoltatore scrive: sto aspettando con ansia la decisione di Ibra, che magari va al Sassuolo perché gli piace la piadina. Anche a Chievo. Andrea, buongiorno. Andrea? Sì, ciao. Mi senti? Non lo so, proviamo. Sì, ciao. Ciao. Sono Andrea, sono da Como, sono interista. Ma io volevo dire che secondo me la vendita al gruppo cinese è stato un affare pazzesco per l'Inter. Sono assolutamente contento. Non mi manca e non mi mancherà Moratti. mi manca senz'altro il comandante Mourinho, sì, quello se tornasse sarebbe il massimo. Direi che vediamo con calma a rate, tanto, tanto va allo United e penso che si fermerà salvo inconvenienti per un po'. Sì, però diciamo Moratti ci ha portato il triplete, lo ringraziamo, ma il vero artefice rimane Mourinho, per cui chi mi mancherà per sempre sarà lui. Poi per Moratti gli auguro buona fortuna e grazie, per il resto nulla. Grazie Andrea. Francesco, Firenze, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Sì, c'è qualche... Pierluigi, c'è qualche... No, io voglio che Pardo risponda a questo ascoltatore che fa della... Cioè, della cucina locale, insomma. Sassuolo non c'entra niente con la piadina, mi scrive. Vabbè, dai. La piadina si mangia a Rimini, lo sappiamo tutti. Ho capito. Solo Modena, grandi cappelletti. Mamma mia, che. Ma l'Italia è questo. L'Italia è questo qua. Tu sbagli di 40 km. Ho capito. Però secondo me una piadina non male si può trovare anche a Sassuolo. O se no, Ibra può andare in Riviera a mangiarsela. Non credo che gli manchino le possibilità. Mamma mia, come siete pelosi. Gli americani, canadesi. La cosa più bella che si possono comprare o magari noleggiare nell'Italia è questa, il fatto che probabilmente in Cina le ricette non cambiano ogni 10 km o in Canada o negli Stati Uniti, e noi abbiamo questa cosa che è stata il Rinascimento, che è stata il Medioevo, che è tante cose diverse, insomma, un paese spesso anche diviso da questo punto di vista, diviso perché è oggettivamente diverso da 10 km a 10 km, e spesso un paese di rivali, di Guelfi e Ghibellini, sì, di certo. Di piadina, tigella e gnocco fritto, come scrive qualche ascoltatore, ma Ibra vuol mangiare la piadina, poi va a Rimini, a Sassuolo, si mangiano tigella e gnocco fritto. Ma sì. Francesco da Firenze, che non è quello che stiamo per sentire. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Dica. Noi abbiamo la piadina fiorentina, credo che sia meglio. Eccola, me l'aspettavo. Senti, io sono juventino e per la nazionale sono molto fiducioso. C'è il gruppo Juve, quindi si va avanti. Tutto qua. Ciccio Graziani, cosa ne pensi? Buongiorno. Ma di cosa? Dell'ultima affermazione delle piadine? No, della piadina, dell'ultima affermazione. Ma le piadine, ma cosa ce ne frega? Ma le piadine le posso... Allora, sappiamo che sono patrimonio di una certa realtà, ma poi le possono fare buone anche a Milano, a Ragusa, a Pantelleria, ma cosa ce ne frega? Ma con tutti i problemi che ci sono oggi in Italia stiamo a discutere sulla piadina. L'importante è che la piadina dove la mangi buona, poi per adesso che te ne frega. E secondo me non è difficile. Ciccio, invece, cresce la fiducia intorno a questa nazionale, lascia stare il 2-0 sulla Finlandia. Però io ho avuto l'impressione, che ho scambiato ieri con Nosotti, secondo cui a sensazione, a pelle, mi pare che la fiducia in questa nazionale, per motivi strani, sarà per le parole di De Rossi, sarà per, non lo so, l'avvicinarsi dell'evento, mi sembra che stia crescendo la fiducia verso questa nazionale. Ma io ho fiducia a prescindere, perché giocare contro di noi non è mai facile. Siamo sempre una squadra scorbutica, tatticamente siamo tra i più bravi al mondo, abbiamo carattere, abbiamo personalità, abbiamo un allenatore che secondo me ha fatto il lavoro più importante facendo diventare questa nazionale una squadra, un gruppo. E solitamente non è così in nazionale, noi sappiamo che in nazionale si seleziona, non si allena, ma io credo che Antonio abbia fatto un ottimo lavoro sulla mente e sulla partecipazione dei ragazzi a questa manifestazione. Non abbiamo grandi sogni, perché non abbiamo grandissima qualità, forse questa è una delle squadre sotto certi aspetti tecnicamente meno dotate, però abbiamo quei requisiti che ho detto prima, e per questo io sono molto fiducioso. Non mi faccio incantare dalla vittoria contro la Scozia o contro quella di ieri sera con la Finlandia, che sono degli ottimi allenamenti, ma l'europeo è un'altra cosa. Però sono fiducioso perché noi giocheremo, secondo me, all'italiana, avendo una squadra con queste qualità, penseremo soprattutto nel difenderci e poi andremo a contrattare. E questa e questa situazione ci porterà sicuramente, secondo me, dei buoni risultati. Allora, ci fermiamo un attimo, non prima, ci fermiamo per il traffico. Ciccio Graziani, stai lì, ovviamente anche tu, sì, Pierluigi Pardo. No, io vi volevo congedare prima del traffico con questo messaggio del nostro amico Matteo Caccia, che ha scritto: io ho rinnovato l'abbonamento ieri dopo la conferenza stampa da Nanchino, sono pronto a mangiare riso cantonese al posto della salsiccia con cipolla ai baracchini fuori dallo stadio ogni domenica. Un abbraccio, Matteo Caccia. Tutti convocati. Tutti convocati. Vabbè, oggi ne stiamo facendo una questione enogastronomica, perché c'è un ascoltatore che scrive: dite a Ciccio che la polenta taragna si mangia solo a Bergamo. Va bene. Diamo per scontato questo e torniamo a parlare di nazionale. No, volevo segnalare che sono tutta una tellina in questo momento, quindi praticamente è una tellina che mi parla, perché non mangiate talmente tante nell'ultima ora che, quindi insomma, sono una tellina, considerate. Senti, io volevo che Ciccio Graziani mi parlasse di un giocatore che secondo me un po' gli somiglia. Adesso no, non ti incazzare, Ciccio, però Pellè. No, Zaza. Secondo me è un giocatore che, come garra, come grinta, come, anche come incoscienza, un po' ti somiglia. Somiglia al primo. No, è un piacere, è un complimento. Io lo ritengo un complimento. Certamente abbiamo giocato in epoche diverse, però come tipologia di approccio alla gara, la volontà che uno ci mette, l'impegno. Io a Zaza gli do sempre minimo 6,5. Per come imposta le sue partite, per come si impegna, per come si sacrifica, per come corre. Poi dopo a volte può prendere 8, a volte 5, perché magari sbaglia qualche occasione di troppo, però devo dire che per l'approccio alla gara, per la disponibilità che lui ci mette, io mi ci rivedo molto in lui e sono contento di questo. Lo promuoviamo attaccante centravanti titolare noi nello spogliatoio di Radio 24. Ma se dovesse optare per due punte, io oggi Pellè e Zaza secondo me è l'accoppiata migliore, perché uno è un pochino più punta, più d'area di rigore, più punto di riferimento, bravo nel gioco aereo, sa coprire meglio la palla. Zaza invece è una zanzara, è scorbutico, perché rincorre, corre, crea degli spazi, è pazzo, perché a volte si prende delle licenze di calciare in porta in posizioni impossibili, esatto, però lo fa esatto. E qualche volta anche ci indovina, per cui devo dire che la coppia a me piace, questa coppia qui. Il CT Pardo cosa dice? La zanzara. No, io penso che sto parlando con la persona giusta, perché l'aggettivo che veniva sempre associato a Ciccio Graziani, me lo ricordo quando ero bambino, scusami Ciccio se sottolineo la nostra diversità di generazione, era generoso, no? Che poi era anche fortissimo Ciccio Graziani, ma era, come spesso poi le persone diventano vittima o schiave di una definizione, di un'etichetta, era generoso, oltre che ovviamente molto forte, e quindi è la persona perfetta per valutare un attacco dell'Italia che non è esattamente il massimo dal punto di vista tecnico, ma che ha questa caratteristica di generosità, di impegno che ci portiamo dietro. Io ho buone sensazioni, penso che dobbiamo essere positivi, penso che il calcio italiano sia in crisi, ma non è da buttare via, siamo una grande scuola, una grande cultura calcistica, abbiamo un grandissimo allenatore che secondo me tirerà fuori il meglio da questa squadra, e che forse proprio le polemiche sul poi c'è un altro che arriva oggi, ma poi ne parliamo, un altro che arriva oggi, che le polemiche sul suo presunto disimpegno o il suo poco focus a causa Chelsea, credo queste invece gli tirano fuori veramente il meglio. La squadra è una squadra discreta, è una squadra che però se tira fuori il massimo, io ho visto con i miei occhi, e vi giuro era tutto vero, ho visto la Grecia vincere un europeo, ho visto Trajanos Vellas, che era la mia prima esperienza nel teatro ai tempi di Sky, non sapevo ancora come fare i collegamenti, che veniva fuori dal ritiro in ciabatte e non ci credeva neanche lui, Caristeas, questa gente qui, per cui noi dobbiamo crederci, noi siamo molto più forti di quella Grecia lì, tanto per fare un esempio, e abbiamo secondo me delle caratteristiche che ci rendono comunque difficilmente affrontabili da tutti, nessuno ci vorrebbe affrontare, poi è ovvio che le favorite sono altre 3-4 e va anche bene così, perché noi italiani da sempre diamo il massimo delle difficoltà, e quando non abbiamo la pressione dell'essere favoriti. A noi le cose facili non ci piacciono, ci piace stupire. No, non come siamo capaci, non ci piacciono, quindi... ma non siamo nemmeno capaci. Ragazzi, rispondiamo insieme a Cristiano da Venezia. Cristiano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della conversazione. Allora, ieri sera, premetto, sono andato a vedere la partita perché era un'occasione anche per il figlio piccolo a 9 anni e voleva andare allo stadio. Gran pubblico ieri sera. Gran pubblico, poi sì, insomma, è sempre un'emozione vedere uno stadio pieno, anche perché quello di Verona. Anche perché non siamo, sono andato, banalmente non siamo abituati. Esatto, non è banalmente. Non... Il discorso qual è? Io faccio altre due premesse. La prima è un amichevole, la seconda, quando si è in prossimità di mondiali europei, si diventa 60 milioni di commissari tecnici, quindi i commenti vi lascio immaginare. L'unica cosa che un pochettino è un amichevole, per carità, si sono visti che stavano provando schemi, cioè, ci sono alcuni giocatori tipo Sharawi che si è mosso molto, che è stata una buona copertura difensiva, quando i difensori sono avanzati, cioè, si vede che ci sono dei meccanismi che funzionano. Purtroppo, adesso qui faccio anche un commento un po' cattivo, quando c'è stato l'intervallo io ho fatto una battuta, poi mi è sembrata un pochettino una partita come di 3-7 col Morto, ci siamo girati in 6 che non conoscevano e uno mi ha chiesto: ma stai parlando di Thiago Motta? Beh, francamente l'ha presa un po' troppo come un allenamento. Ma i meritati, sì, sicuramente, ragazzi, i meritati questo, sicuramente però questo però sì, non ha fatto niente no, va bene, adesso c'è questa sorta di accanimento nei confronti di Thiago Motta, però secondo me la partita di ieri sera nel complesso va giudicata positivamente, perché ci siamo avvicinati a grandi eventi in situazioni peggiori, no Ciccio? Sì, ma guarda, la gente, apre una parentesi, la chiude, è troppo ignorante su tante cose. Ma ragazzi, ma da Thiago Motta cosa ci possiamo pretendere? Io da Insigne, dai talenti, a volte mi aspetto molto di più che di quello che ti posso dare. Ma Thiago Motta è questo. Thiago Motta è uno che sa far girare bene la palla. È un po' lento, però è difficile che la sbaglia il passaggio, sa coprire. Non è uno che ha questo grande talento che ti fa le giocate di un certo tipo. La gente adesso si è accanita perché ogni anno dobbiamo trovare un capo espiatorio su una situazione. Bravo, che non esatto, piace. Esatto, fatto un casino con questo numero 10, ma se non lo dai a Thiago Motta a 10, in questa nazionale, a chi lo dai? Ma no, ma poi alla fine... La gente tante volte veramente bisognerebbe aprire il cervello e vedere cosa ci ha detto. No, ma posso dirti, De Rossi è stato... De Rossi è stato stupendo, è stato un vero leader in questa situazione nel dire più o meno le cose che stai dicendo tu. E fra l'altro c'è anche da sottolineare il fatto che comunque, premesso che un numero 10 tecnicamente non ce l'abbiamo, forse Insigne potrebbe essere il numero 10 di questa nazionale, ma così proviamo a avvicinarci. Ma comunque qualcuno avrebbe da ridire anche sul 10 Insigne. In ogni caso è frutto del bagaglio tecnico che abbiamo, e comunque Thiago Motta ha delle caratteristiche almeno di esperienza, certamente, di leadership, di abitudine, poi 10 va bene. Pesa di meno sulle sue spalle sulle sue spalle, che magari sulle spalle di qualcuno che ce le ha, non ce le ha così larghe. Grazie Ciccio Graziani, grazie Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani alle 14, noi dopo il GR naturalmente andiamo avanti. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30 con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Totti sì, Totti no, Totti forse, oggi, domani, dopo, a Roma, a Miami. Oggi la notizia era Paciapallotta a Roma, si attende il rinnovo del contratto di Francesco Totti. Pallotta aveva detto no, ma non ci sarà nessun rinnovo in questi giorni, mi vedrò con Totti a Miami. Adesso Giorgio De Luca, per risollevarmi un po' lo spirito, un giorno vi racconterò perché, ha detto che c'è Pallotta in uno studio legale e pare si sia in attesa di Totti. Va bene, dai, dettagli, insomma, non è che stiamo parlando di cose epocali, di cose che cambieranno la nostra vita, quantomeno. Piero, buongiorno. Senta. Sì, presente, sono io. Bene, allora, io chiamo da Pescara, no? Sì. A Pescara abbiamo sempre avuto attaccanti pazzeschi, da Rebonato a Immobile e poi Signe, no? Certo, ricordo bene. Adesso abbiamo l'attaccante più forte la Padula. Che c'è, la Padula. Ragazzi, insomma, te lo porti sto cazzo di la Padula? Scusami la parola. Questo fa 30 gol pure l'anno prossimo, eh? E li fa, Piero. Facciamo, diamo appuntamento ai mondiali magari, cioè io sono d'accordo, sono per la fantasia, l'intuizione, il colpo d'occhio e la velocità di esecuzione, come dicevano, come si diceva in quel film meraviglioso che è Amici miei, non mi ricordo se atto primo, secondo o terzo, che cos'è il genio, fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione, va bene. Sono per tutto questo, però è un giocatore che ha fatto una meravigliosa stagione di Serie B, che ha zero esperienza internazionale, che dall'anno prossimo vedremo sui palcoscenici della Serie A, ma sono d'accordo sul fatto che sia un grande talento, sono d'accordo sul fatto che magari un commissario tecnico diverso, magari un commissario tecnico non italiano, diciamo così, avrebbe puntato su un giocatore emergente di una serie minore. In questo caso le gerarchie di Conte sono ferree, sono state scritte da tempo, e dunque accontentatevi di la Padula che vi sta portando in Serie A. Sergio, buongiorno. Buongiorno, io sono un milanista ormai molto deluso. E perché Berlusconi giustamente ha fatto la storia del Milan, per amor di Dio, dobbiamo dirgli mille volte grazie, però Berlusconi deve anche capire una cosa, che è entrato nel periodo della senilità, e lo vediamo in tutti i suoi, in tutte le sue attività, dalla politica al calcio, sta perdendo colpi su tutti i piani, e lo vediamo giorno dopo giorno. Va bene, dunque. Ed è meglio che i suoi figli, mi riferisco a Barbara Berlusconi, Marina e Pier Silvio, adesso che è lì a San Raffaele da oggi, vadano lì e dicono: Silvio, spegni il motore, riposati e lascia andare avanti i giovani. Perché se il Milan non ha il ricambio direzionale, dirigenziale, ovvero Galliani, basta, ne abbiamo piene le scatole dei soliti ingaggi a costo zero, dei prepensionati calcistici, mi riferisco a questa è stata tutti, per anni la politica societaria, esatto, Sergio, esatto, quindi esatto, la politica societaria non l'ha dettata Galliani, poi possiamo discutere. L'ha dettata Berlusconi, no, ma io sono d'accordo con voi, però Galliani è meglio che abbia il coraggio di dire, come ha detto Sedo in una famosa riunione, che quando è andato lì e poi gli ha mandati tutti al tal paese, infatti io sono curioso se dopo il 30 giugno Sedor parlerà del suo periodo al Milan, ma io posso immaginare in quella riunione cosa gli abbia detto, che Berlusconi gli ha detto abbiamo una squadra da Coppa dei Campioni, e Sedor gli avrà risposto: ma caro Presidente, qui più che una squadra da Coppa dei Campioni lei è una squadra da ottavo posto. Senta, no, Sergio, io, lei ha ragione, però io le faccio una domanda a cui mi deve dare una risposta secca. Lei in vita sua quante persone in ogni ambito istituzionale, sportivo, calcistico, economico, sociale, quante persone si ricorda che hanno mollato la Cadrega? Poche, in Italia pochissime, in Italia pochissime, pochissime, ed è purtroppo l'errore dell'italiano, è l'errore. Io vedo per esempio all'estero, lei per esempio, prenda per esempio... Sarà che all'estero non c'è il concetto di Cadrega? Sì, c'è il concetto di Cadrega, ma quando arrivano però a un certo punto dove capiscono che ormai oltre quel limite non si può più andare, lasciano il posto agli altri, lo so, è faticoso, è duro, lo chiami come vuole, però capiscono, sì. Cioè se fanno è sempre sbaglio, è sempre questione del proprietario, che è Silvio Berlusconi e che è l'uomo che a tutt'oggi ha l'ultima parola, e che non ha ancora probabilmente ben capito, ben deciso se vuole lasciare la sua creatura, ma poi possiamo parlarne per giorni e giorni, per anni e anni, come d'altra parte stiamo facendo. Fino a quando Berlusconi si deciderà, il Milan rimarrà di sua proprietà. Fa un po' rima, fa un po' schifo anche come rima, però questa è la verità. Io saluto il maestro Marino Bartoletti. Ciao Carli. Buongiorno, un affettuoso maestro. Saluto a te e a tutti gli amici di Radio 24. Affettuoso. Senti, vorrei parlare, siamo qui per fare le pagelle del martedì. Prima abbiamo ospitato Beccalossi e Ruggeri, ci sono anime dell'Inter che dicono: ma benvenuto futuro, questo è il destino, non dimenticheremo mai quello che è stato. Altri che dicono, come è successo a un ascoltatore ieri: io ho sempre tifato Inter, però adesso tifo l'Atalanta per somiglianza di colori, perché questa non la mando giù. Allora, Sindrome cinese, che tra l'altro è stato un enorme film degli anni 70, giusto? Degli anni 70. Carlo, che vuoi, una risposta o c'è prima il contributo? Prima c'è il contributo. Tohir ha preso in mano una cosa molto difficile, certamente, come lo sarà anche per queste signore, ma però ha cercato di fare tutto quello che poteva fare. Devo dire che quando ha visto le difficoltà a crescere o ha visto anche le future difficoltà, ha avuto la prontezza e la capacità di dare a un gruppo come si deve, di passare a un gruppo come si deve il timone, quindi trovo che abbia fatto bene. Allora ti cito un altro capolavoro, Ragione e sentimento. Allora io ti ricordo soltanto che l'Inter si chiama Internazionale per definizione, quindi dovremmo avere, come dire, la buona volontà di guardare avanti anche in questa occasione, che è l'occasione di una mutazione genetica. E bisogna avere un po' più di pazienza di quanto non ne stiano dimostrando alcuni tifosi intransigenti. Io non cambio la mia opinione su Tohir, che ti diedi, forse lo ricorderai, i primi giorni del suo insediamento, ecco. E dissi più o meno e allora me, alla Tohir, fine della presidenza Tohir, voto alla presidenza Tohir, non arriviamo alla sufficienza, purtroppo. Assolutamente no, assolutamente no, anche se questo guizzo, se è un guizzo onesto, quello di cedere qualcosa di importante di questo patrimonio del calcio italiano, dello sport italiano, a qualcuno di solido, potrebbe essere un qualcosino che, come dire, alza il voto fino al 6 meno meno meno meno meno, con tutti i meno che prendevo io in matematica. Voto alla speranza che gli interisti possono avere in questa operazione. Io direi che siamo abbondantemente al di sopra del 7, non dico che è l'ultima spiaggia perché sarebbe un pochino ingrato, però si passava da questa fase traumatica, oppure paura che restava in uno stallo eterno. Altro argomento, oggi partenza, volo verso l'europeo con mille dubbi, mille incertezze che al solito ci portiamo dietro, Conte, e poi ne parliamo con Marino Bartoletti. Noi tutto facciamo tranne che le ripartenze, quindi io, se vi può interessare, non alleno mai le ripartenze durante le mie sessioni tattiche. Noi non abbiamo una nostra idea di gioco, quando siamo in fase di possesso abbiamo le nostre idee, cerchiamo di riconquistare la palla subito, però ripeto, col Belgio noi faremo la nostra partita, aspettatevi difesa contropiede, non fa parte proprio della mia idea calcistica, difesa contropiede, questo deve essere chiaro a chi dice ripartenza. Io non alleno mai, potete chiedere benissimo, da Arezzo in poi non ho mai allenato il contropiede. Allora, al di là delle disquisizioni tattiche che sono solo un pretesto, Marino, di vigilie di europee e mondiali ne hai vissuta qualcuna, voto a questa. Intanto mi chiedo quanto dista Coverciano da Collodi, poi facciamo un rapido conto eventualmente, perché Conte dice sempre tutto il contrario di tutto, prima l'ho anche sentito dire che la prima partita può valere tutto e niente, ecco, mi rifaccio alla sua dialettica, diciamo. Tutte le vigilie degli europei e tutte le vigilie dei mondiali, e siamo sull'ordine della ventina vissute sul campo, mi hanno insegnato soltanto una cosa, che è assolutamente inutile fare previsioni. Guardi, io ho vissuto una vigilia di mondiali, quello dell'82, come ricorderai, tutti dicevano tutto il male possibile di Bearzotta, e i critici rimasero, come dire, pesantemente scottati. Quando nell'86 invece potevamo dire qualcosa, perché era veramente una nazionale che non aveva né capo né coda, malgrado avesse delle pepite importanti come l'esordiente Vialli e tante altre cose, nessuno ebbe il coraggio di criticarlo, ma tutti poi vedemmo come andò a finire la cosa. Era la terra di mezzo, dai. Quella nazionale fu la terra di mezzo. a una definizione di nostro grande fratello Joan Brera Fucarlo, fare delle previsioni ai confini della masturbatio grillorum. Conte può dire quello che vuole, secondo me lui vuole rotolare verso la finale attraverso 6-1-0. Sì. Altro argomento che ti sta molto a cuore è l'ultimo, Marino. Ieri abbiamo fatto una lunga discussione nella seconda parte del nostro programma, anche secondo me molto interessante, con Roberto Ungaro che era qui con me, con Carlo Pernat, con Meregalli che è, come sai, il direttore generale della Yamaha. Allora, ti faccio sentire che cosa ha detto Pernat e poi ti chiedo un voto. Ragazzi, io Valentino, ma io ho sentito un po' di telefonate, l'ho sentito e io penso che francamente, confermo anch'io, sia la migliore stagione di Valentino. Valentino sembra un ragazzino di 23 anni. Cioè, la sua gara d'identità non è quella, sfido chiunque a dire che questo ragazzo ha 37 anni e va per i 38. L'hanno clonato. Cioè, fa delle gare incredibili, cioè questa è una carta d'identità falsificata, deve mandare dei carabinieri, qualcuno. Allora, ti sfido a dare un voto basso a Rossi, per una qualunque ragione. No, non esiste. Io che appartengo, come ho detto un'ultima qualche volta, qualche puntata fa, l'ultima generazione che ha dato l'esame di Stato in decimi, cioè da 0 a 10, credo che sei uno di quelli che può confermare comunque che Valentino Rossi ha quell'età lì, perché tante volte abbiamo raccontato quell'episodio in cui ti fece la pipì sui pantaloni. Quindi ma ci picchi, avevo un anno e non conservai quei pantaloni, purtroppo, sfortunatamente. Valentino è mio figlio, è mio fratello, è nostro figlio, è nostro fratello. Valentino, credimi, è il motociclismo, non per nulla. Quando devono rinnovare un contratto biennale lo rinnovano lui e non a qualcun altro. Ha fatto la gara perfetta. Lo scorso anno abbiamo terminato la stagione convinti che sarebbe stata l'ultima occasione della sua vita. L'ultimo treno, sì. Io credo che invece ne stia costruendo un altro. Anche la stretta di mano sulla quale so che tu hai qualche umana. Ecco, bravo. Allora passiamo per provare a buttare un po' di sale su quella stretta di mano che secondo me è stata una enorme manfrina. Io credo che invece abbia fatto il gesto che deve fare un fratello maggiore che ha nelle mani le fila della storia del motociclismo mondiale contemporaneo. È vero che ci può essere un po' di malizia, però è anche vero che io ho visto il gesto del fratello maggiore, ripeto, che ha detto: oggi non facciamo gli stupidi, ragazzi, dai, oggi guardiamo tutti un pochino più avanti. Cioè, tu ti riferisci a quello che è successo nel corso di questo weekend, in cui la morte è tornata ad attraversare la strada del motomondiale? Beh, diciamo che nel nome di quella pipì addosso, che mi autorizza a essere molto sincero nei suoi confronti, lo scorso anno, pur stando dalla sua parte, non capì alcuni suoi comportamenti che non erano da fratello maggiore, non erano da persona adultissima nei confronti di altri che erano soltanto dei bambini capricciosi. Domenica l'ho ritrovato fratello maggiore, pur avendo palesemente 16 anni, perché quello che ha fatto lui lo può fare soltanto uno che ha il fisico e la testa di 16 anni. 10 e lode, ma con qualche sofferenza. Maestro, ti ringrazio informandoti che mi arrivano dei messaggi contraddittori, non so se li sta scrivendo Conte, perché ce n'è uno che scrive circa 60 km tra Coverciano e Collodi, mentre c'è Roberto da Modena che è più preciso: Coverciano con Lodi chilometri 78, propendo per la versione di Roberto. La lunghezza di un naso, Carlo. Sì. Grazie, ciao, maestro. Alla prossima. Tutti, ciao. Ciao Marino Bartoletti. Torno agli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Allora, premetto che sono un tifoso milanista. Sì. Però volevo sapere, siccome si parla anche del Milan che debba cambiare, Moratti a livello economico, da questa operazione che hanno fatto, come se ne è uscito? Moratti se ne è uscito intascando le sue fish, perché lei sa che c'era ancora una certa quantità di azioni che erano in tasca a Moratti, e aveva il diritto di esercitare questa opzione anche nei confronti di Toir a novembre, e quindi ha intascato le sue fish, è uscito dal club. Quindi certamente ci ha rimesso nel corso di 21 anni di presidenza una montagna di quattrini, però alla fine quello che rimaneva di monetizzabile lo ha giustamente incassato. Giovanni da Treviso? Sì, da Treviso. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, grazie, veramente. Grazie. Ma volevo distarmi dal coro di chi spinge per... Sono un tifoso milanista, scusate. A 6 anni ho scritto una lettera a Rivera. Sì. A matita. Sì. È stato l'unico motivo per cui ho cominciato a scrivere. E volevo dire che sento troppi milanisti che non vedono l'ora di tornare a vincere con chiunque e a prescindere. Mm. E questo non è un comportamento ottimo per un tifoso, perché si può stare anche un periodo di vacche magre. Io credo che Berlusconi farebbe, sì, Giovanni, bene a giocare un periodo con di vacche magre, però con una sorta di prospettiva, perché io credo che tutti potrebbero accettare, dopo aver vinto tanto, il periodo di vacche magre, però con una sorta di prospettiva di crescita. Il problema è che in questo Milan non si vedono prospettive di crescita, quindi io capisco anche i tifosi del Milan che dicono ok, d'accordo, come quelli dell'Inter in parte, è finita un'era, proviamo a voltare pagina nella maniera più indolore possibile, con tutta la memoria possibile, con tutti gli onori possibili. Paolo Bertolucci, uomo di tennis, mi sbaglio? Sì, buongiorno. A tutti. Sbaglio in quello che dico? No, dici giusto. Sai, d'altronde la riconoscenza, secondo me, proprio i tifosi non danno neppure lontanamente dove possa essere. Se pensiamo a quello che ha fatto Moratti per l'Inter e Berlusconi per il Milan, dovrebbero erigergli un grande monumento davanti allo stadio, e invece mi sembra che non vedevano l'ora che andassero via. Ho sentito prima inneggia naturalmente a Mourinho eccetera, ma senza i soldi di Moratti il signor Mourinho l'Inter non l'avrebbe vista neanche col binocolo. Bravo. E men che meno i giocatori. Esatto. Parliamo invece del signore del tennis che è arrivato all'ultimo anello, Nole Djokovic. Tu oggi sulla Gazzetta dello Sport scrivi i segreti di Nole Djokovic, che non so se voler paragonare a Marquez come rivoluzionario di questo sport, o a Valentino Rossi per la capacità di progredire e di limare i suoi difetti ed eventualmente di adeguarsi alle caratteristiche degli altri. Sì, ma il fatto di voler progredire, di non aver mai la pancia piena, di voler limare al massimo i difetti, di volere raggiungere, alzare l'asticella del rendimento, questo vale per tutti i fenomeni di tutti i campioni. Noi abbiamo Federer, abbiamo Nadal, adesso abbiamo Djokovic, come c'è Valentino Rossi e come ci sono tanti altri nello sport mondiale, da Pellegrini eccetera. Non si può toccare certi vertici se non si ha qualcosa in più, qualcosa di diverso rispetto agli altri. Senti, un ascoltatore ieri ha chiamato e ha detto Djokovic ha un merito in più rispetto agli altri grandi del tennis, cioè si è misurato in un'epoca in cui i grandi giocatori sono molti. Io mi sono permesso di far notare che insomma non è che all'epoca vostra di Borg, Panatta, e McEnroe e Connors fossero pochi, non è che all'epoca di Edberg, Becker, e ovviamente non posso star qui a fare l'elenco alfabetico, però questa considerazione non la condivido. È un'epoca di buoni grandi tennisti, di grandi campioni, però non diversa dalle altre. No, secondo me non può essere diverso, perché ad esempio adesso Djokovic, che è immenso, sicuramente ha un certo tipo di fortuna, nel senso che Nadal non è quello di 2 o 3 anni fa, e la carta d'identità di Federer è quella che è, di conseguenza come unico vero rivale al momento c'è soltanto Murray. I giovani, io credo che per 2 anni Djokovic continuerà assolutamente a dominare il panorama mondiale, in attesa tra un paio d'anni che qualche giovane si affacci, ma adesso è troppo presto per i giovani, quindi questo lo dicevano anche di Federer quando dice gioca contro Agassi, ma Agassi nella parte finale. Uh-huh. E d'altronde quando c'è un giovane che emerge, c'è sempre purtroppo qualcuno che è nella fase calante della sua attività, però insomma qui si parla di fenomeni e non di campioni. Certo. Siamo sul livello fenomeni, bravo Paolo. Grazie Paolo. Grazie, a grazie presto. A voi. Grazie a Paolo Bertolucci, con cui chiudiamo il nostro programma di oggi. Torniamo naturalmente domani con tutti i convocati alle 14. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bindi in redazione. Ciao a tutti. Che spettacolo, da brividi!